Effetto Mondo. If I thought a special counsel at this stage was the right tool and was appropriate, I would name one, but I haven't and I'm not going to. Eccoci qua, Giulia, buongiorno. Buongiorno, questa era, credo, era l'ultima occasione che avremo, penso, di sentire la voce di William Barr. È probabilmente il ex, ormai ancora per due giorni, sarà oggi e domani, procuratore generale degli Stati Uniti, equivalente al nostro ministro della giustizia, perché come sapete Trump lo ha dimissionato settimana scorsa con un tweet. Lui l'ha apparentemente presa anche abbastanza bene, ieri ha convocato una conferenza stampa per parlare... Era questione di ore, come di giorni, perché comunque il governo cambia. Sì, in teoria appunto il 20 gennaio, come sappiamo, c'è l'insediamento ufficiale di Joe Biden e che in questo momento è ancora però president elect, quindi è una transizione molto anomala, diciamo, se vogliamo, perché non è vero che Donald Trump in questo momento non ha pieni poteri, la sua amministrazione è ancora in carica. E William Barr aveva convocato questa conferenza stampa per aggiornare su un caso di terrorismo del passato. Ovviamente i giornalisti gli hanno chiesto: ma cosa ne pensa di queste ennesime accuse di Donald Trump, che vuole scongiurare un ultimo voto favorevole a Joe Biden il 6 di gennaio, e ha anche evocato la legge marziale all'interno dei seggi e il sequestro delle macchine che conteranno i voti in Georgia il 5 gennaio. Bill Barr ha detto: io non vedo alcun rischio di questo genere, di ulteriori brogli, non credo che sia necessario un special counsel, che potremmo tradurre come un commissario per la questione brogli, non penso di doverlo nominare e non lo farò. E la stessa domanda gli è stata rivolta per quanto riguarda un altro special counsel, un altro commissario per la questione dei rapporti del figlio di Joe Biden, Hunter Biden, all'estero, in Russia, in Ucraina, e lui ha dato la stessa identica risposta: non nominerò, non farò alcun supplemento di indagine perché non lo ritengo necessario. Questo naturalmente è su tutte le prime pagine dei giornali americani, perché William Barr è stato fino a, diciamo, 15 giorni fa, quando si è rifiutato e poi appunto è stato dimissionato, di indagare ulteriormente sui brogli, perché la Corte Suprema aveva detto non ci sono ulteriori ragioni per indagare su questa questione. È stato fino a 15 giorni fa un fedelissimo di Donald Trump, e a questo punto naturalmente non lo è più. Però sui giornali americani fa molto effetto anche quello che sta succedendo nel Regno Unito. Ci sono le foto scattate in particolare a Dover, su queste White Cliffs, su queste colline bianche letteralmente, e che sono sulle prime pagine di tutti i giornali. Poi naturalmente c'è il pacchetto di stimoli che è stato ufficialmente approvato. Alcuni americani avranno questi assegni da $900 già forse prima di Natale, cioè entro, diciamo, il 24, che negli Stati Uniti, come in Italia, non è tecnicamente un giorno festivo, e poi nella peggiore delle ipotesi entro una settimana da oggi. Quanti giorni dall'approvazione al versamento? Approvato ufficialmente ieri lunedì, quindi passa una settimana. po' diverso. Sono i tempi, diciamo, dell'amministrazione americana, che su altri aspetti, come per esempio quello della sanità, non è necessariamente invidiabile, anzi, dal mio punto di vista, non lo è per quanto riguarda noi. Su questa efficacia invece delle misure economiche, mi sembra che siamo su un altro pianeta, perché una settimana. Senti, poi naturalmente c'è il tema di Joe Biden, che ieri si è fatto vaccinare, diciamo, in diretta televisiva. Io ho visto social, i commenti, cioè... sui social erano moltissimi, dicevano: ma non sarà vero, sicuramente, ma figurati se ci dobbiamo credere. È vero che quello che riguarda un presidente è sempre avvolto da un alone di mistero, per cui... Comunque, insomma, diciamo, la procedura apparentemente sembra perfetta. Infermiera afroamericana, e torno a ripeterlo, lo sottolineiamo non perché ci interessa, ma perché continua la discussione negli Stati Uniti. C'è anche online, lo potete trovare, un interessantissimo intervento di Anthony Fauci, che cerca di spiegare perché la percentuale di scettici all'interno della minoranza afroamericana, che, lo ricordiamo, vale circa il 15% della popolazione americana, esiste questo scetticismo, perché purtroppo negli anni 40, 50 e 60 70 sono venute fuori, sono state dimostrate delle sperimentazioni sulle minoranze afroamericane, non per vedere che fosse particolarmente efficace una medicina sugli afroamericani, ma per evitare di testarla sui bianchi. Quindi da qui lo scetticismo. Anthony Fauci si sta sgolando per dire non abbiate paura di farlo, e se volete sentiamo questo audio di Biden che, dopo aver ricevuto questo primo jab, questo vaccino sul braccio, prima dose, sì. La prima dose, ha poi di nuovo ringraziato Donald Trump per il suo sforzo, e poi naturalmente ha anche detto è importante che tutti, appena saranno chiamati a farlo, facciano questo vaccino. Sentiamo la sua voce. The administration deserves some credit getting this off the ground with Operation Warp Speed. I also think that it's worth saying that there's great hope. I'm doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. Quindi dice appunto credit a questa administration, quindi ringraziare ancora per l'Operation Warp Speed, e poi lo faccio per, appunto, per dirvi, appena sarete chiamati, sarà disponibile a seconda della categoria in cui ricadete, fatelo. Poi naturalmente c'è la questione che dicevi anche tu, ne sta parlando molto nelle newsletter dedicate, per esempio la CNN, ma tantissimi altri media americani, di queste operazioni di test sulla variante del coronavirus appena trovata, che stanno facendo sia Pfizer che Moderna. Alcuni giornali danno conto anche del fatto che anche in Sudafrica è stata trovata una nuova variante del virus, diversa dalla variante inglese britannica e diversa naturalmente da quella originaria. Quindi si conferma che questo coronavirus, come dice sempre Galli, fa il suo lavoro, cioè lui deve mutare per adattarsi. Quindi siamo noi che dobbiamo affilare le nostre armi, noi nel senso come ricerca scientifica. Poi sui siti sì, ci sono, come hai detto tu, anche i commenti, ma no, era acqua distillata, ma sì, no, era certo. Candeggina, vabbè. No, devo dire che effettivamente tutto quello che riguarda, no, la vita di un presidente, poi riletto con gli occhi della storia, viene tutto poi rivisto, e quindi ci potrebbe stare anche questa dietrologia. Però a me personalmente non mi appartiene il complottismo, il genere non mi interessa, però insomma era giusto per una notazione. Mi ha sorpreso che ci fossero così tanti che non credevano a quella vaccinazione. Invece crediamo ai titoli dei giornali inglesi che fotografano una situazione insomma non brillante. Si va, insomma, vi dico il titolo perché poi sui tabloid si sono scatenati, ma non li citiamo neanche. Però Metro, che è un quotidiano gratuito ma comunque fatto bene, molto serio, direi che vince oggi il titolo, perché il titolo è Jingle Hell, quindi non Jingle Bell ma Jingle Hell, quindi l'inferno natalizio, potremmo dire, perché ci sono poi le foto delle code, le code delle persone davanti ai supermercati, perché abbiamo detto ieri c'è un problema non tanto di fare scorte in casa, ma i supermercati che potrebbero essere veramente rimanere in difficoltà. E poi naturalmente ci sono le foto di Boris Johnson ieri decisamente provato sul suo comportamento in questo frangente. Si sta aprendo un fronte interno, e devo dire, ho sentito anche Leonardo Maisano ieri che ne parlava proprio qui ai microfoni di Radio 24, e il partito conservatore sa essere molto crudele con i suoi leader se mettono in dubbio, insomma, la forza che ha il partito conservatore sugli elettori, e quindi Boris Johnson sta rischiando veramente grosso. Oggi ci dovrebbe essere un voto in Parlamento sull'ultimo accordo per la Brexit, perché naturalmente, come scrive l'Economist, Covid-19 and Brexit combine to isolate Britain, quindi queste due cose si sono combinate per isolare il Regno Unito, titoli naturalmente su tutti i paesi che hanno chiuso i voli. Quindi vedremo se almeno questo accordo, che è un'offerta che l'Unione Europea ha fatto sulla famosa questione dei pescatori, se viene accettato o no, e almeno così la questione Brexit passerebbe in secondo piano e Boris Johnson potrebbe occuparsi invece del Covid. Si ipotizza già, ne parlano tutti i giornali, di una chiusura per tutto gennaio delle scuole, quindi questa purtroppo è un'ipotesi che si fa largo anche in Germania. D'altro canto, se è vero che la scuola in sé, lo ripetono anche tutti i giornali, è un posto relativamente sicuro, il problema è come ci si arriva, cosa si fa prima, cosa si fa dopo, e questi ragazzi asintomatici che poi tornano a casa e infettano i familiari sostanzialmente. Giulia, parliamo anche della Spagna, che ha avuto un disastro anche in termini di vite umane, come più o meno quello dell'Italia. un bilancio molto molto pesante. A proposito del vaccino, si fa strada un'ipotesi? Sì, che ne cos'è? Parla El Mundo in prima pagina e lo trovo insomma interessante perché la Spagna, come tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, in teoria dal 27 gennaio inizia la vaccinazione e sì, siccome anche lì ci sono molte persone, molti sondaggi che dicono che percentuali inquietanti della popolazione, inquietanti perché impedirebbero di raggiungere l'immunità di gregge, non vorranno fare il vaccino, non è per ora previsto un obbligo vaccinale, e però il governo sta seriamente pensando, ci sarebbe già quasi pronta questa proposta, di istituire un vero e proprio registro delle persone che ufficialmente dichiarano, chiamate, di non volersi vaccinare, e quindi di poi che cosa succederà, se ci saranno sanzioni, se ci saranno conseguenze ti ammali allora paghi, cose di questo genere, oppure ti ammali ma non avrai la precedenza alle cure visto che hai rifiutato il vaccino. È da vedere, però questo dà l'idea che sarà un problema per se veramente queste percentuali, che in Spagna sono abbastanza alte come in altri paesi, di persone che dichiarano di non volersi vaccinare in modo poi generico, perché sappiamo che il vaccino di Pfizer è diverso da quello di Moderna, è diverso da quelli che arriveranno ancora, quindi purtroppo è l'irrazionalità che spunta sempre. Ne parlava ieri l'altro giorno Mantovani, Alberto Mantovani, dall'epoca di Tucidide, insomma le epidemie spaventano, scatenano probabilmente la parte più irrazionale degli esseri umani. Assolutamente, ci mancherebbe, almeno diamo sfogo a queste paure, a queste frustrazioni. Naturalmente bisogna farle anche un po' uscire, no? Abbiamo ancora tempo per qualche titolo, sì, Giulia? Direi dalla Germania, in prima pagina, sì, su tutti i quotidiani, la condanna all'ergastolo di Stefan Balliet, che il 9 ottobre del 2019 fece quell'attentato orribile in una sinagoga a Halle vicino a Lipsia. La filmò perché furono 35 minuti di terrore puro, sì, morirono due persone. È un neonazista dichiarato, ed è stato appunto condannato ieri all'ergastolo. Per tornare un attimo sulla questione Brexit, invece sempre in Spagna e il País e anche altri quotidiani parlano di questo invece accordo raggiunto per quanto riguarda Gibilterra, tra Madrid e Londra, per almeno in quel luogo facilitare il passaggio e non bloccare le persone nell'enclave, che sappiamo è un altro delle tante questioni che ha aperto la Brexit, e che se fosse hard vorrebbe dire che tutte le persone per uscire e entrare da Gibilterra dovrebbero fare dei controlli che naturalmente rallenterebbero di molto le procedure. Mi pare che non abbiamo citato la Francia, o sbaglio? Sì, no, hai ragione. Qualche secondo. In Francia invece naturalmente molto anche lì sulla questione vaccini, e poi c'è questo, visto che abbiamo parlato di antisemitismo, la nuova Miss France che ha in queste dichiarazioni che si fanno su chi, sì, sul proprio passato, ha detto mio nonno era di fede ebraica ed è stata coperta online, a proposito di social, di insulti antisemiti anche pesantissimi, del tipo se Hitler fosse ancora vivo non saresti mai diventata Miss Francia, e adesso il governo ha deciso di aprire un'inchiesta e di perseguire o cercare di trovare gli autori di questi commenti e perseguirli. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi con Pietro La Corte Regia e Jacopo De Franchi in redazione. Ci risentiamo naturalmente domani e anche tra poco per l'aggiornamento delle 14. Ciao, buona giornata.